l'ansia che cercavo. Maria tu petturu tu bella sai, curunata di stelle si ti vui, quando mi trovo abbandonata sai, Maria tu petturu tu chiama vui. Si monti voi si ti venuta, Maria tu petturu tu curunata, a mezzo di li monti e la iumara, Maria tu petturu tu di consula. Evviva Maria! Noi siamo peccatori ma devoti, perciò venimo camo vi trovamo, e vi cercamo a voi la protezione, pregando con gran fede in ginocchioni. Maria tu petturu tu grazie fati, e li malati a tutti li sanati, sanati senza medicina, l'uvena vostri piedi mo s'inchina. Mo puru chi la strada è terminata, arrivano un di voi tutti fedeli, ma l'anchianato ognuno faccia peri, grazie a cupe e monti chiedi. Maria tu petturu tu curunata, a pedi la facimu l'anchianata, Maria tu petturu tu cindiamu, e se voli ti canti voi tornavo.